medjezaj, la polvere. Di nuovo ora di partire verso nuove mete, studiare ancora dove poter placare di scoperte la sete. Thank you.